Bonjour, bidon. D'où vichisima puntata. E buongiorno e benvenuti all'ennesima puntata, la 12ª di Bonjour Bidon. Ciao, benvenuti. Benvenuti, io sono Angelo Trofa. E io sono Leonardo Piccione. Ma stiamo attenti perché sta per arrivare il vento laterale. Eh sì, no. Oggi è previsto vento laterale. Oggi ci sì. Sono i Pirenei. E no, è vento laterale, ne parleremo anche se non c'è. C'è vento laterale, ecco, sento, guarda un po', c'è il vento laterale. Ma non c'è, oggi ci sono le montagne. C'è il se alla televisione dicono che c'è vento laterale, se ne parla anche se non c'è il vento laterale. Cioè, attenti, ecco il ventaglio, ecco ma il ventaglio. Ma dove lo vedi? Dove lo... Sì, ecco qua, vento laterale. Ma cos'è sta roba? Questo è un phon, perché la gente se vuole vedere il vento laterale, noi glielo facciamo sentire il vento laterale. È radio, ma non importa. Ma spegni qualcosa che fa caldo. È il vento laterale, attenti! Attenti, perché se c'è il vento laterale, se la RAI dice che c'è il vento laterale c'è, ecco, questo è il vero, la vera anima della puntata, della trasmissione di ieri sera. Vento laterale. Ma no, ma dai che ci sono le montagne, forse la tappa sta partendo. A furia di parlare di vento laterale, c'è il vento laterale. E quindi, con tutto questo vento laterale, iniziamo! Eccoci, allora... Buongiorno a tutti, avrete sicuramente i capelli scompigliati da tutto questo vento laterale. Io no, perché ce ne ho pochi, quindi nessun problema. Credo nessuno, perché il vento laterale ieri evidentemente non c'era. Però si aspettava, tutti aspettavano il vento, sì. Non è arrivato, e invece è arrivato di nuovo Kittel. Ieri una tappa vinta dal bellissimo Kittel, che è evidentemente è arrivato alla sua quinta vittoria, per il grande piacere di tutti voi che siete così tanto appassionati di tappe che si chiudono in volata. Ricordiamo che ieri nessuno di voi ha scritto sì, a me piacciono le volate, quindi... Se volete oggi potete scriverci il commento: ah, che fortuna, che disdetta, oggi purtroppo non si arriva in volata. Se volete scrivetelo tranquillamente, noi accettiamo non tutti. Non credo, anche qualcuno lo scriverà. Le persone alle quali piace il sushi, quindi figurate, se non accettiamo le persone alle quali piacciono le volate. Comunque, come abbiamo fatto? Cosa hai fatto ieri di bello, Leo? Dopo la tappa? Sì, dopo sono la tappa. Sono stato nel quartiere di Villanova di Cagliari, bellissimo. Ah, molto bene. Ho mangiato un gelato e bevuto un caffè in Piazza Garibaldi. Ah, molto bene. Nel centro, dove c'è una delle migliori pizzette al taglio, ah, sì? Che si dicono a Cagliari. Però non l'ho assaggiata ieri. Vabbè, sì, che hai fatto allora? Gelato, te l'ho gelato, caffè. Va bene. Libro. Va bene, lasciamo perdere la vita privata di Leonardo Piccione, bene, che sono un ragazzo semplice, così poco interessante. Invece chiediamo oggi, come diceva giustamente Leo, si arriva in salita, una sì. Tappa di ben altro spessore, quindi chiediamo ai nostri ascoltatori, se volete, di farci sapere qual è il vostro pronostico per oggi, dopo ne parleremo. Un sì. Arrivo in salita. Oggi si arriva in salita, il secondo di tre arrivi in salita. Però ne parliamo dopo, Pietro ha preparato una presentazione fantastica. Un attimo su ieri. Sì, cosa vogliamo dire? Ha vinto Kittel. Cosa vuoi dire? Beh, che bello Kittel, l'abbiamo già detto. Sì, c'è una cosa. Piange. Allora, questa cosa del pianto di Kittel. Kittel, cioè, non è detto che pianga. Il fatto che si accasci dopo il traguardo, non è detto. Cioè, nessuno ha visto piangere Kittel. Santo si accascia. Cioè, non è che non avete visto gli spasmi del diaframma in preda alle lacrime o le lacrime stesse. Perché lo deridono tutti ormai, sto Kittel. Ieri, addirittura, Martinello ha detto: è il consueto pianto di Kittel. Povero Kittel, cioè, non è detto che pianga. Cioè, è magari, solo stanco, magari. Non si sa. Chissà cosa ne pensa del pianto di Kittel il nostro Filippo, che dovrebbe essere in collegamento da Milano. Sì, ma prima di sentire Filippo Kautz da Milano, parte il suo stacchetto ovviamente personale. Filippo, buongiorno. Buongiorno, mi sentite forte e chiaro? Fortissimo. Sento che però c'è del vento laterale. Perché sono per strada e in questo intermezzo si è alzato il vento a Milano. Confesso, non sto scherzando, si sta anche molto bene così, ma... Beato te. Ma come diceva prima Angelo, gli è uscita involontariamente questa frase bellissima, che la gente vuole vedere il vento. Forse a Milano qualcuno vuole sentirlo più che vedere. Io sto osservando il vento in questo momento. Allora, caro Filippo, ieri, la tappa di ieri è effettivamente pianeggiante, un'unica strada dritta come dritta la coscienza di Leonardo, ma cioè, credo, a vedere male. Sembra così, però questi ultimi 26 chilometri resi particolarmente interessanti da questo attacco, da questa azione di Bodnar, che a 26 chilometri lascia la compagnia dei fuggitivi e tenta un'azione fino agli ultimi metri. Sì, Bodnar non è negli ultimi chilometri, Bodnar è partito al chilometro zero e ha fatto 202 chilometri di fuga. Sì, è vero. Purtroppo la tappa durava 202,5 chilometri, questa cosa... Non so, ha sbagliato i conti giusto su quello, non lo so, in realtà è stato preso veramente, io ho riguardato, è stato superato tipo ai meno 400 metri, una cosa simile. Anche meno forse, anche ieri, meno ieri di 400. L'hanno seriamente rischiata la squadra dei velocisti e forse gli stava bene perché noi ormai seguiamo la Bibbia di Offredo e andiamo contro le squadre dei velocisti a prescindere. No, hanno sbagliato un po' i conti, o più che altro ha fatto degli ottimi conti Bodnar, che è un bel passettone, questo sa fare, questo ha sempre fatto, macinare in pianura, e l'ha fatto fin quasi alla fine, sarebbe stato chiaramente... Parleremo di tutt'altra tappa e di tutt'altro Tour de France, probabilmente, se Bodnar fosse riuscito a concludere. Probabilmente sì. Nonostante questo, la tappa di ieri ha avuto momenti di suspense, perché ci sono state delle cadute. Perché c'era il vento laterale. Non credo legate al vento, però sono caduti diversi corridori. È caduto di nuovo Alberto Contador con un suo compagno di squadra, Gogol se non sbaglio. È caduto Dario Cataldo, si è fatto male al polso e si è ritirato. È caduto anche Jakob Fuglsang, che stamattina o ieri si è scoperto avere due microfratture. Quindi anche in prospettiva futura, in prospettiva odierna, proprio Fabio Aru avrà due compagni in meno probabilmente. Uno sicuramente, cioè Cataldo. Fuglsang bisognerà verificare in che condizioni è, perché oggi è importante anche avere dei compagni di squadra che siano attivi e sani. È caduto anche Bardet. Ieri, sì? Insomma, sì, sono caduto ieri. E Contador? Contador l'ho già detto, l'abbiamo detto. E Contador... certo, l'immagine di Contador che cerca di recuperare il gruppo è un'immagine tristissima. Sì, anche se poi lui ha detto ieri che chi pensa che possa mollare non lo conosce, perché lui non mollerà, forse non è pronto per provare ad attaccare già sui Pirenei, ma ha detto che sulle Alpi certamente proverà a fare qualcosa. Ma noi oggi, comunque continueremo a parlare del Tour de France, continuiamo a parlare della tappa di oggi e di come sta andando questa grande boucle insieme a un ospite graditissimo. Abbiamo con noi al telefono Marco Balestracci, uno scrittore, un appassionato di ciclismo, un nostro amico e collaboratore. Al suo attivo ha già, credo, tre libri sul ciclismo: L'ombra del cannibale su Merckx, Imerio su Imerio Massignan e Il dio della bicicletta. E pregando il dio della bicicletta, salutiamo Marco Balestracci. Marco? Ciao Bidoni, come state? Ciao Marco, noi stiamo bene, tu? Ma io vecchio severamente, dai. E voi, tutto a posto? Noi tutto a posto, ti sentiamo un po' basso, ma adesso proviamo a risolvere. Risolvi. Eccoti qua. I nostri tecnici hanno eccoci risolto qua. Prontamente. Dove sei, Marco? Sono in un luogo a meno, in mezzo al Veneto. D'altro canto abito in Veneto, quindi c'è vento anche da te? Stamattina? Scusami? C'è del vento per rinfrescarti stamattina? Sì, certo. Senti Marco, il tour lo stai seguendo? Questo tour? Ti piace? Certo. Sì, cioè a me, indipendentemente dai giudizi, a me il tour piace sempre. Perché io sono in questo caso antinazionalista, nel senso che secondo me la grande corsa a tappa è il Tour de France. Quindi amo certamente il Giro d'Italia, ma secondo me la corsa a tappa è il tour. È il tour. E oggi per il tour è una giornata importante sulla strada, ma anche nella memoria, perché oggi è ricorre il 50° anniversario della morte di Tom Simpson sul Mont Ventoux. E so, perché ho letto alcuni dei tuoi libri, che sei molto legato alla storia di Tommy Simpson. Guarda, tanto per raccontarti, allora il primo libro che ho scritto sul ciclismo è stato L'ombra del cannibale. Originariamente era immaginato come un libro di racconti. E poi abbiamo trovato un collegamento che lo rendesse di fatto un romanzo sui generis, però il primo racconto che io ho scritto è la prima cosa che ho scritto è stata la morte di Tom Simpson, perché era una cosa che era rimasta nella mia memoria. Avevo solo 5 anni quando è accaduto, però Adriano De Zang per me, come sai, è il quinto evangelista dopo Matteo Marco, Luca, Giovanni, c'è Adriano Bezzano. Quindi quando lui parlava delle tappe alpine, inevitabilmente parlava sempre della morte di Tom Simpson. Per cui io sono, a un certo momento, quando ho voluto scrivere, ho dovuto togliermi questo sasso dalla scarpa e ho scritto subito della morte di Tommy Simpson. È un sasso anche in senso fisico proprio del termine, no? Quando sei stato sul Vantù, raccontaci un po' cosa hai fatto. Ah beh, certo, io ho sempre desiderato di andare a vedere il posto dove è morto Tom Simpson. La mia compagna è convinta che siamo andati nel sud della Francia perché è un posto romantico. In realtà io sono andato solo esclusivamente per andare sul Mont Ventoux a vedere il posto dove era morto Tom Simpson. Spero che non stia ascoltando, se no sono rovinato. E insomma, quel giorno in cui sono andato sul Mont Ventoux ho voluto a tutti i costi andare nella pietraia e andare nel luogo dove c'è la stele dedicata a Tommy, dove è caduto l'ultima volta, e ho voluto rubare un sasso del Mont Ventoux. E poi è successo quello che è stato raccontato sul Dio della bicicletta. Non lo svelo, così magari qualcuno si compra il libro. Certo, ma adesso dov'è quel sasso però? Anche se abbiamo svelato qualcosa, forse così. Scusa, non ho capito, ripeti. Dove ce l'hai quel sasso del Ventoux adesso? Ce l'hai esposto in casa? Ce l'ho esposto in casa, certamente, cioè nel posto d'onore, a fianco del busto di Marco Aurelio. A fianco al busto di Marco Aurelio. E, quindi Tommy Simpson, Mont Ventoux, oggi invece però si arriva sui Pirenei, la prima tappa pirenaica. E sì. Tu hai scritto ieri un post su Facebook eccitato dal passaggio sul Col de Mantè. Esatto, perché sul Col de Mantè accade una delle cose più... che è il mio secondo racconto, non sto scherzando in questo caso. Dopo aver scritto il racconto di Tom Simpson, scrissi il racconto di quello che accade sul Col de Mantè al Tour del 71. Cosa accade? Quando Luis Ocaña sconfisse Orsier Merlet, cioè staccò Orsier Merlet, Eddie Merckx vide un distacco spaziale, oltre 7 minuti, quindi Merckx si trovò 8 minuti e mezzo da Luis Ocaña, che indossava la maglia gialla, e Ocaña chiaramente aveva 8 minuti e mezzo di vantaggio, cercava disperatamente di non farsi scippare la maglia gialla, ma probabilmente Ocaña aveva sulla spalla la scimmia di Eddie Merckx, perché Ocaña veramente impazzì in quel Tour de France, e nel nubifragio della tappa, della prima tappa di Pirenaica al Tour de France del 71, c'era appunto il Col di Mantè, e Luis Ocaña, che resisteva un attacco in discesa di Eddie Merckx in mezzo al nubifragio, come dicono i francesi l'orage, scivolò su una curva del Col de Mantè, cadde, si rialzò, ma quando si rialzò praticamente venne preso da Geoff Zoetemelk e da Joaquim Agostinho, che arrivavano in discesa e non controllavano più la bicicletta. Gli andarono addosso e lo schiantarono, venne portato all'ospedale, mi pare di Tolosa, se non ricordo male, e Luis Ocaña si dovette ritirare dal Tour de France, e Eddie Merckx vinse il suo terzo Tour de France. Il tuo amato Eddie Merckx. Il Col de Mantè è proprio l'esempio. Ieri ho visto l'altimetria della tappa, ho visto il Col de Mantè, ho detto cazzo il Col de Mantè. Sì, sarà a metà tappa, dopo c'è il Port de Balais, il Peyresourde e Peyragudes. Esatto. Sì, esatto, ma siccome io vivo di... cioè, francamente, a me piace di più vivere la memoria del ciclismo attuale, quindi sai, io ho visto Col de Mantè, mi sono subito... emozionato. Esatto. Senti, ma oggi invece vuoi farci un pronostico? Anche se ti piace più la memoria che il presente, però dici un nome per oggi. Cosa vuoi che ti dica? Il ciclismo di oggi pensavo, in attesa della vostra telefonata, ci pensavo ormai il ciclismo di oggi. Sto leggendo il libro su Bottecchi adesso, quello che ha scritto Claudio Gregori. Sì. E mi rendo conto che il ciclismo non è cambiato. Il ciclismo ha fatto 4 volte il giro dell'universo, ma sono cose completamente differenti. Cioè, è un ciclismo che tu vedi, con i gregari che portano i campioni fino a 2 chilometri dall'arrivo, e poi lì, se hanno gambe, vanno, e se no stanno tutti quanti insieme a guardarsi, fanno uno scattino. Cioè, io parlo ancora anche nei miei libri del ciclismo, in cui 299 chilometri la tappa da Courmayeur a Aosta Courmayeur nel Tour del 59, con degli uomini completamente diversi, cioè certo, persone da caratteristiche completamente diverse. Quindi prendila un po' come vuoi, se la prendi come una critica, prendila come una critica. Però oggi la tappa te la vedi? A oggi spero di sì, perché sai, io purtroppo, per fortuna, non ho la televisione, quindi dipende molto dal mio computer. Se c'è abbastanza connessione, riesco a vederla tutta. Domenica l'ho vista tutta, quindi sono contento. Dai, oggi sarà bella. Oggi sarà bella. Marco, grazie. Grazie mille. State in gamba, state in gamba. Anche tu, e buon lavoro, perché sappiamo che stai facendo delle prove per uno spettacolo. Grazie, ciao, buona serata. Ciao Marco, a presto, grazie, ciao. Ringraziamo il nostro Marco Balestracci. Marco Balestracci, che è tra gli autori del 100 Giro. Assolutamente. Che per è uscito volesse... in edizione digitale negli scorsi giorni, lo ricordiamo. Tra vedere e non vedere, noi in sovraimpressione vi abbiamo mandato la copertina del libro Dio della bicicletta, dove si parla di Simpson e di altre storie di ciclismo. Ma adesso incombe la spot pubblicità. Su spot incomincia il momento nel quale noi ci inginocchiamo e ascoltiamo lo spot degli orologi sbagliati del tour. Nonno? Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku. Dai nonno, raccontamela. E va bene. Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono perché gli orologi... avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola, nonno, l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Eccoci qua di nuovo in ma diretta. Ma sta bambina io non la sopporto più, davvero. Io spero che nel proseguo della storia il nonno faccia qualcosa. Perché... cosa può fare, secondo te? Ma non te? Lo so, ma cioè, rimandarla dai genitori. Manda in colonia. Manda in colonia estiva, è luglio, che si faccia da parte. C'è il Tour de France. Ma, senti, non si critica lo sponsor. Tra l'altro so che sta andando benissimo, molti di voi stanno chiamando. Alcuni di voi hanno già questo meraviglioso oggetto che costa soltanto sopra i 5.000 euro, quindi credo che tutti voi possiate... la fonduta, credo, quello sia l'oggetto del desiderio. Oggi chiamo anch'io perché ci tengo al volume sulla fonduta, col clima che c'è in questi giorni, fa è ideale una bella fonduta rinfrescante. Invece in Francia... Che clima c'è? Non sappiamo che clima c'è. Sappiamo che la tappa sta per partire perché oggi partono prestissimo. È partita, e quindi noi eccoli, andiamo... sono partiti. Bene, però noi andiamo avanti a vedere con la nostra... Sì, a vedere qualcosa di ieri, molto rapidamente e simpaticamente. Come sapete noi abbiamo una rubrica nella quale leggiamo come i corridori hanno seguito, hanno vissuto la tappa attraverso i social network. Quindi parte col nuovo stacchetto i 5T dalla corsa. Colpi di scena. Gli uccellini di Twitter. Caspita ragazzi, Bonjour Bidon sta andando verso vette altissime, tecniche e organizzative. Guarda, ho la pelle d'ocra, come si dice in questi casi. Allora in questo momento chi può vedrà il primo tweet, la prima foto Instagram della quale parleremo oggi, dove c'è il nostro amatissimo ex campione del mondo, buonanotte, Michał Kwiatkowski. Sì, infatti, sti nomi non riesco a dirli. Kwiatkowski, che in maniera entusiasta... si fa una foto con i gemelli Weasley di Harry Potter. Credo che fossero in visita questi due attori al bus della Sky. E molti dei corridori Sky si sono fatti la fotografia con loro, compreso Chris Froome. Ma il più entusiasta di tutti era Kwiatkowski, che deve essere un appassionato di Harry Potter, come te Leonardo. Tu l'hai visto? No, in realtà non l'ho mai visto. Mi vergogno un po', ma non ho mai visto Harry Potter. Sarò cresciuto male, ho avuto un'infanzia triste, ma non l'ho visto. Scusa? Non ho capito. Sei senza parole. Tu non hai visto Twin Peaks? Io non... Cosa, non hai visto Harry Potter? Non ho visto Harry Potter. Cioè, in questi 20 anni in Italia, cosa hai fatto? Scusami. Cioè, ti vedi qualsiasi serie, anche quella sul pescatore di trote anglosassone, ma non Harry Potter. Cioè, non lo so. Potter mi è sfuggito. Facevo altro in quegli anni. Io scopro ogni giorno degli aspetti di te che non mi piacciono. Fatelo dire. Cioè, purtroppo ci mancano ancora 10 puntate. E ci mancano ancora tanti aspetti che non conosci. Non so come potremmo andare avanti. Comunque andiamo avanti con un'altra immagine dei nostri cinguetti dalla corsa ed è torna il concetto del tempo. Perché c'è lo sponsor degli orologi che spinge gli agricoltori francesi a sbizzarrirsi con queste figure sui campi, e ieri c'era questa bellissima clessidra. Questo ha avuto molto successo su tutti i social network, se la sono scambiata, perché qui vediamo un disegno di una clessidra tra i campi di fieno con dei trattori che simulano la sabbia. Era in movimento, tra l'altro. Che meraviglia. Un'immagine veramente che ci fa tornare indietro, ci fa ricordare quanto siamo felici di essere vivi e di poter vedere il Tour de France. Addirittura, tutto sì, questo. Esageriamo. E poi le mucche. Non è della concorrenza? Cosa? La clessidra? Non è della concorrenza questa? Potrebbe stiamo essere. Stiamo sbagliando tutto, perché io so che c'è la collezione delle clessidre sbagliate del tour. Delle clessidre sbagliate? Sì, che sta andando a ruba e dovremmo riuscire a superarli, per cui non diamole troppo pubblicità. Va bene, allora vai. Andiamo avanti. L'altra foto. Le mucche, abbiamo il tour, e qui l'entusiasmo dei francesi per le mucche con un personaggio. Anche questa foto ha avuto molto successo sui social network. Abbiamo addirittura un signore che si è vestito da mucca. È un classico. Ieri non ce n'erano tante di mucche vere, allora lui ha pensato di vestirsi egli stesso. Sì, e saluta vacca francese e saluta i fuggitivi a bordo strada. Per calarsi nel personaggio ha mangiato fieno per 15 giorni. Infatti si può vedere. Sì, da cosa lo noti? Si vede. Vabbè, scusa, se non hai l'occhio allenato, no, non è colpa mia. Andiamo avanti. Ma come fate a dire che si è vestito così ieri? Ah, dici che è sempre così. Il signore vive così, esatto. Un signore che vive come una mucca. Sarebbe interessante seguire. Esatto, e rumina anche. Sicuramente Netflix sta per far partire una serie su questo signore e Leonardo la vedrà. Ne fa tante di serie Netflix. Cowman. Tra cui, però, tra le serie di Netflix, la più famosa, forse in questo momento, quella più sulla cresta dell'onda, è Stranger Things, che riparte a ottobre. E noi abbiamo Peter Sagan. Peter Sagan ieri ha pubblicato questa sua foto nella locandina del nuovo Stranger Things. Lui l'ha chiamato Stranger Tour. Talmente strano che lo fa da casa. Lo fa da casa. No, ci piace proporre questa immagine perché l'altro giorno Alessandra Giardini era preoccupata del fatto che Sagan potesse diventare serio e perdere questa sua spensieratezza dopo l'episodio dell'esclusione dal tour. Ci sembra che non l'abbia persa e siamo del tutto felici di questo. Perché ci ascolta veramente come se fossimo un programma radiofonico, vi dico che Peter Sagan è vestito da signorina. Una delle protagoniste di Stranger Things. Se non guardi la serie, perché tu la guardi questa certo, serie? Certo, Stranger Things. Beh, ovviamente io sono seduto a fianco a una persona che non ha mai visto Harry Potter, ma vede anche Stranger Things, vabbè. Vede tutto. Cioè, se voi la vostra vita la dividete. Sono felice di essere lontano. Cosa? Che sono felice di essere lontano, perché io non ho mai visto né l'uno né l'altro. Figurati. Ah, per un altro, va bene, dai, siamo a posto. Comunque, se voi dividete la vostra vita in puntate da 25 minuti, Leonardo vedrà anche la vostra vita, perché guarda qualsiasi cosa, purché sia una serie e purché sia sconosciuta. Che sia interessante. Comunque, chiudiamo la nostra sezione di Twitter, e di Instagram e di tutti gli altri social network e mandiamo al volo l'altro. Un altro, oggi proprio siamo commercialissimi. Oggi si arriva in salita e quindi è importante proteggere i nostri polpacci. Ah, i polpacci? Sì. Ok, guys, two more minutes. Hey guys, two more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando, pupacci. Altrecin, crema alla teina. Tecnologia asburgica per i tuoi polpacci. E credo la concorrenza asburgica oggi sarà necessaria sulle salite del Tour de France, mi sembra. Assolutamente. Come avete notato, la concorrenza ha creato un piccolo problema tecnico nella pubblicità. Non so, perché comunque siamo un programma molto ambito dagli sponsor, quindi si fanno a gara per sponsorizzarci. Ma invece nessuno sponsorizza, lo sponsorizziamo noi, il grandissimo Pietro Pisaneschi, che ci introduce la tappa di oggi, attesissima, che è già cominciata, e andiamo a scoprire com'è il percorso. Attesissima, tranne dagli appassionati delle regolate che vediamo nei commenti già fioccano. Purtroppo molti si lamentano che oggi si arrivi in salita. Mi dispiace, non c'è una volata oggi. Ma sentiamo come si arriva oggi. Grazie. Vai Pietro. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 12ª tappa di questo Tour de France 2017 da Pau a Peyragudes per 214 km. Arrivano i Pirenei, belli e spietati, carenza di affetto, direbbe Gianni Mura. 6 salite in programma, 5 delle quali negli ultimi 100 km di corsa. Il tappone piranaico comincia con la Côte de Cap Vern, quarta categoria, seguita dal Col de Arrée, seconda categoria. A circa 80 km all'arrivo è posizionata l'ascesa al Col de Menté, salita di prima categoria, quasi 7 km. all'8%, ma la corsa comincerà presumibilmente ad entrare nel vivo quando mancheranno 41 km all'arrivo. Di pianura nemmeno più l'ombra, ma solo salita, discesa e di nuovo salita, fino all'arrivo a Peyragudes. Si comincia con la salita di Port de Balais, hors categorie, quasi 12 km al 7.7% di pendenza media, ma con un ampio tratto, circa 2 km, oltre il 10%. Dopo 15 km di discesa, ecco che inizia l'ascesa al Col de Peyragudes, 9.7 km che mantengono una pendenza costante intorno al 7-8%. Dopo essere arrivati ai 1569 metri del Peyragudes, i corridori affronteranno poco più di 2 km di discesa prima della risalita finale che porterà all'arrivo di Peyragudes. L'ultimo chilometro è al 13%. Tappa per gente tosta, come James Bond, protagonista del film Il domani non muore mai, girato proprio da queste parti. Per qualche corridore non ci sarà un domani in questo tour, dopo la tappa odierna. Occhi dunque puntati su Aru, Bardet e Uran, ossia i principali contendenti a sottrarre la maglia gialla a Froome, racchiusi in un minuto, anche se i miei favoriti di oggi sono Quintana e Barguil. Il primo è chiamato alla sortita decisiva per riaprire il proprio tour, il secondo potrebbe puntare a fare bottino pieno di punti per la maglia Poix e provare a centrare la vittoria sfuggitali per qualche millimetro domenica scorsa. È tutto per oggi, vi invito a seguire la tappa, ovviamente su Bidon, e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P. Au revoir. E dunque, una tappa che potrebbe dire ad alcuni corridori che non c'è un domani, secondo... Sì, grande Pietro, ha citato James Bond, tappone pirenaico, 6 gran premi della montagna, i primi 100 km tranquilli, gli altri 100 davvero duri, con 5 gran premi della montagna. Filippo, dici qualcosa? Filippo, cosa vi devo dire? No, fuga, vittoria degli uomini di classifica... Ma cominciamo a dire che questo è l'unico tappone di montagna del Tour de France, per cui sicuramente dovremmo guardarlo con un po' più di interesse del solito. Cosa anomala, quest'anno sia il Giro che il Tour hanno il loro tappone infrasettimanale, questa è una particolarità che capita di rado, e questo è un tappone vero perché le montagne non mancano anche nel finale. Il finale a me piace molto, e per cui io non credo che arrivi una fuga oggi, e penso che vincerà Kittel. È un po' difficile che vinca oggi Kittel. Dici un nome, quello che vuoi che perda, perché sappiamo che funziona così quasi sempre. Sono due giorni che azzecco il pronostico, faccio presente. Negli ultimi due giorni ho preso dei difficilissimi pronostici. Avevo capito che da regolamento le vinceva tutte Kittel fino a Parigi. Se voi dite di no, mi dispiace molto. Oggi no. Anche a me intrigava l'ipotesi che Quintana oggi tornasse a galla. Non lo so, voglio crederci, sai, diciamo che vince Quintana. C'è un commento di Antonio su Facebook che ci dice: Quintana sta ancora cercando di riaprire il Tour 2015, non penso abbia molte speranze oggi. Il Tour 2015 non lo riaprirà. Ma non è detto, sta per fare uno scatto nel 2015. Ricordiamo comunque sempre la massima che quest'anno Quintana il Tour lo vince l'anno prossimo. Questa vale sempre. E vabbè, questa la diciamo dopo, perché c'era un commento su Quintana anche riguardo le domande più fatte durante le dirette, Andrea ci suggeriva che una delle domande ricorrenti è: cosa vuol dire questa espressione di Nairo Quintana che sta per attaccare per caso? Questa è un'altra domanda ricorrente. Non questa espressione, ma l'espressione. L'espressione unica e irripetibile. Assolutamente. Immodificabile. E io se devo fare un nome, non me l'avete chiesto, dai, faccio lo stesso. Harry Potter, io direi. Angelo. Adesso lo chiediamo anche ad Angelo. Io invece dico Daniel Martin. Daniel Martin. Anche se forse è una tappa dura un po' per le sue caratteristiche, però sta talmente bene. Secondo me c'è anche un po' di voglia di rivalsa dopo quello che è successo sul Mondo Scià. Scendendo dal Mondo Scià, Daniel Martin. Daniel Martin, chi lo sa? Io fino adesso, come avrete notato, ogni nome che ho fatto ha avuto una sfiga o è arrivato ultimo, quindi io dico, secondo me oggi Froome. È un auspicio. Ma secondo me oggi Froome, guardate, Froome, io lo vedo benissimo, Froome, va sicuramente Froome. E speriamo. No, ma secondo voi a che ora, cioè non noi, perché noi chiaramente non so se la Rai ha già iniziato, ma noi ci metteremo davanti alla televisione non appena inizia. Anzi anche un po' prima, vedremo quei programmi prima tipo di windsurf, cose così, già per scaldarci in attesa che inizi la diretta. Ma per le persone senza dei deficit mentali come noi, a che ora consigliate, cioè da che momento consigliate di guardarla la tappa? Ma io penso, cioè secondo voi già al Peyresourde? No, ma già al Port de Balès mi aspetto qualcosa. Già al Port de Balès addirittura? Sì, certo, perché dopo non c'è pianura, c'è discesa, si sale subito. C'è una micro discesina, c'è il Peyresourde, micro discesina e poi Peyragudes. Peyragudes che è durissima, e gli ultimi 500 metri sono tipo al 20%, e potrebbero, leggevo che qualcuno pensava e suggeriva che potrebbero fare più differenza quei 500 metri finali a livello di tempo in classifica che tutti i chilometri di salita che vengono prima oggi, e non è da escludere questa possibilità. No, se vanno tutti insieme fino ai 500 metri finali effettivamente. Io credo che oggi ne andranno tutti insieme, però... Peyragudes tra l'altro che è il posto in cui Froome fece quella scena barbina di girarsi verso Wiggins, di dai vieni con me e poi parlare alla radio, non so se vi ricordate, una delle scene più tristi sì, del ciclismo dell'ultimo decennio forse. Era Peyragudes? Era Peyragudes, sì. Speriamo di non rivedere una scena simile, anche se non ci sono i presupposti. Speriamo ci sia comunque carne al fuoco. Leggiamo un po' di pronostici che ci avete inviato su Facebook. Allora, che schifo le salite, dice Alex. Oggi Stefano invece, arrivo in salita, ma chi se la guarda oggi la tappa senza volata? Guardiamola. Valerio, tappa da fuga di una ventina, venticinquina di corridori e vince Pinot. E poi, come dicevo prima, Alex ci dice, profetizza un Landa. Landa, e chissà, Landa mi sembra difficile, ma... Finché dovrà essere accanto a Froome per proteggerlo, a servizio del capitano, sarà difficile. Ma per quanto ho letto una sua dichiarazione, che lui gli piacerebbe arrivare tra i primi 10. In classifica chissà, generale. Chissà cosa ne pensano la Sky. Ma non è escluso che possa arrivare nei primi 10, bisogna vedere come... Comunque per oggi abbiamo quasi concluso, ma prima di salutarti, sì. Filippo, tu stasera ovviamente sei a Milano e avrai un appuntamento al quale possiamo invitare tutti i nostri ascoltatori che sono a Milano, giusto? Ore 19? Sì, ma anche quelli che sono fuori, se si mettono in viaggio adesso ce la fanno. Non... ma poi si perdono la tappa. Vabbè, gliela raccontiamo noi. Ok, così va bene. Cioè, molto probabilmente sarà anche molto più interessante il nostro racconto di quello che vedranno in televisione. Ma no, speriamo di no, speriamo di no. Sì, alle 19, forse anche 19.30, no, diciamo 19, da Rossignori, Corso Garibaldi, chi è a Milano sa perfettamente dov'è, ci vediamo io, il nostro Francesco Bossi di Bidon, non so se qualche altro ospite a sorpresa, e soprattutto l'anfitrione Gino Cervi che avete ascoltato ieri mattina, sbaglio, la mia memoria è ieri mattina era con noi, sì. Nostro amico e sostenitore da diverso tempo, ci vediamo per parlare di Tour de France. Non vi dico cosa diremo perché non lo so neanche io, chiaramente come sempre si andrà nel totale segno dell'improvvisazione, racconteremo un po' di quello che è il tour, di come ce lo viviamo e di anche quello che sta succedendo in questo tour e di come raccontarlo. Va bene, allora questa sera 19 Rossignoli. 19 Rossignoli c'è la birra artigianale. Birra artigianale, Pirenei, Tour de France. Non parliamo di Tour de France e beviamo solo le birre. E non sarebbe una cattiva idea. Esatto, esattamente. Va bene Filippo, allora domani. Noi ci sentiamo domani invece. Buona tappa, buona ciao. Ciao, e noi continuiamo invece il nostro racconto del Tour de France da un punto di vista, ormai il punto di vista più importante nel panorama internazionale giornalistico. Anche oggi abbiamo, sì, assolutamente, le parole poetiche scritte dalla nostra inviata sul posto oggi a Peyragudes. È salita fin là? Sì, fin a lì, a raccontarci la nostra fiammetta Ruyu, cosa succede lì tra le cime, e grazie alle mirabili parole dei suoi resoconti Okra. Questa storia inizia dove l'airone incontra la montagna e la montagna incontra il cielo. Il cielo incontra la montagna e la montagna gli presenta l'airone. Ah, presenta l'airone. Ma il cielo è attonito perché conosce già l'airone. L'airone dunque è attonito nello scoprire che il cielo è attonito. Ma la più attonita di tutti è la montagna, che sente il suo ruolo messo in discussione. Certo, chiaro. In questo gioco di elementi attoniti partecipa anche Frances. Chi? Che cova nel suo cuore profondo e ambidestro il sentimento dell'atonicità. Frances vuole conoscere l'airone, perché in questa storia, secondo lui, l'airone è il più attonito di tutti e Frances lo stima per questo e glielo vuole dire personalmente, nessun tramite, nessuna lettera. E no, quella lettera l'airone. Scala la montagna, raggiungi l'airone, spicca al volo. Vai. Credi fino in fondo nei tuoi sogni e smettila di chiederti in continuazione che lingua parlerete tu e l'airone. Non distogliere lo sguardo dal tuo obiettivo e vola con il tuo progetto fino al cielo. Sì, dai. Ma il mondo degli uomini, crudeli e concreti, non ha pietà uomini. Per chi non sa volare, per chi non parla la lingua degli uccelli. Francesc non arriva nemmeno in cima alla montagna. No. Inciampa, cade, rotola giù. Frances perde la strada, perde la casa, perde l'abbonamento in palestra e pure perde tempo. Soprattutto e anche mentre noi. Mentre due lacrime gli solcano il viso, un airone, quell'airone, attraversa il cielo, sempre più attonito. Sempre più attonito. Io oggi ho veramente toccato dentro di me le punte più alte della gioia e del piacere nell'ascoltare questi resoconti Okra. Guarda, perché, come avrei notato, oggi è proprio la chiave di volta del concetto di attonicità. Guarda, mi ha reso il cuore ambidestro questa puntata dei resoconti Okra. Cosa cosa ne vuoi capire? Scusa, tu che ti segui tutte le serie del mondo, questa è una specie di serie. Certo, ma infatti adesso ormai, anche se faccio fatica ad ammetterlo, mi sto appassionando. E voglio sapere questo incontro con l'airone quando avverrà, perché adesso sui Pirenei è saltato, mi sembra di capire. Io credo che le prossime puntate vengano scritte direttamente da un airone attonito. Addirittura? Sì. Sempre più attonito. C'è ancora qualche messaggio. Valerio Bianco ci avvisa che Kittel è realmente in fuga oggi. Sì, probabilmente vuole conquistare i punti del traguardo volante, quindi Kittel in fuga. Stefano si augura invece un attacco di Contador. E abbiamo detto che lui invece ha rimandato l'appuntamento sulle Alpi, almeno a parole, almeno a parole ha detto così. E poi Giovanni Bergamini ci racconta che la settimana scorsa è stato sul Vantù e all'ultimo chilometro si è fermato alla stele di Tommy Simpson e gli è sembrato il paesaggio lunare. Esatto, gli racconta un po' questo suo... Un po' come ha fatto, diciamo, il nostro Marco Ballestracci. È un bel commento quello di Giovanni, se siete su Facebook dopo leggetevelo. Beh, direi che per qualcun altro invece Milena ci suggerisce di vedere questo Stranger Things. Merita assolutamente, bello. Ascolteremo almeno Milena, che sperando sia una persona un po' più assennata di Leonardo Piccione. Però, detto questo, noi vi ricordiamo, grazie dei vostri commenti, continuate a commentare, continuate a farci sentire la vostra presenza, così noi due, che siamo una specie di piccola enclave di appassionati di ciclismo in questo caldo torrido cagliaritano. Vi ricordiamo però, a proposito di commenti, che è ancora in corso la votazione sulle domande, più domande tra quelle più sentite durante le dirette televisive che gli ascoltatori mandano ai commentatori. Mi raccomando, andate, fateci sapere se ne manca qualcuna. Sempre fateci su Facebook. Quale di quelle vi piace di più, quindi nei prossimi giorni vi faremo sapere qual è la vincitrice. Detto questo, andiamo a vedere la tappa, quindi chiudiamo con una di quelle frasi che solo noi sappiamo fare, quelle che fanno venire la pelle d'oca, che è: rimanete con noi e col ciclismo, perché tanto sui Pirenei accadono Stranger Things. No, caspita. No, dai, ho collegato l'argomento della giornata con i Pirenei. Non ti è piaciuto? No, non lo so, ti darei un 5, però... Tu 5, invece come concluderesti? No, io direi state col ciclismo, che oggi potrebbe essere sicuramente la giornata del... Ma spegni sto coso. Vento laterale. No, oggi salita. Buona tappa, ciao. Vi